divo, o forse divino, forse anche indovino. Cosa importa quando avrà il sole vicino con un bicchiere di vino? Se si fermasse il tempo non sarebbe una noia. Nell'inferno, cari amici, date un senso alla vita, che il senso della vita è dare senso a questa vita. Il mondo come incontri, questa è stata l'idea geniale di Dio. Lo zio diceva sempre, peccato è che non vede cielo. Fosse presuntuoso e non incosciente, sarebbe stato più innocente se non ci avesse pensato per niente.